Terzo anello, ad alta voce. Il gioco delle perle di vetro, di Hermann Hesse. Josef Knecht aveva compiuto i 24 anni. Col licenziamento da Walzel terminava l'alunnato e incominciarono gli anni dello studio libero, i quali, se si eccettuano quelli innocenti dell'infanzia e Scholz, furono certo i più sereni e felici della sua vita. Infatti, è sempre meraviglioso e commovente il desiderio vagante di scoperta e di conquista da parte di un giovane che, libero per la prima volta dalla costrizione scolastica, va incontro agli sterminati orizzonti dello spirito. Non ha perduto le illusioni, non dubita né della propria facoltà di dedizione infinita, né dell'immensità del mondo spirituale. Soprattutto per ingegni come quello di Josef Knecht, i quali non sono spinti fin da principio da un singolo talento a concentrarsi su un determinato studio, ma per la loro natura mirano all'intero, alla sintesi, all'universale. Questa primavera degli studi liberi è, non di rado, un'epoca di intensa felicità o addirittura di ebbrezza. Senza la precedente disciplina nella scuola dell'élite, senza l'igiene psichica degli esercizi di meditazione e senza il controllo moderatore dell'autorità pedagogica, questa libertà costituirebbe un grave pericolo per siffatti ingegni e sarebbe fatale a molti di loro, come fu infatti a innumerevoli ingegni superiori prima che fosse nato l'ordine odierno, cioè nei secoli precastalici. L'allievo dell'élite, licenziato dalle scuole preparatorie, che viene a trovarsi di fronte a tutti i campi del sapere e dell'indagine, gode effettivamente di moltissima libertà e autodeterminazione. Un controllo più preciso e l'esame delle sue prestazioni incominciano solo quando egli frequenta corsi specializzati e seminari, tra i quali troviamo anche quelli del gioco delle perle e della scuola superiore di musica. Qui, ogni studente deve dare gli esami ufficiali e presentare i lavori richiesti dal direttore del seminario. Ma nessuno lo costringe a frequentare questi corsi, anzi, per semestri e per anni, egli può starsene, se crede, soltanto nelle biblioteche e assistere alle lezioni. Questi studenti, che si prendono tempo prima di legarsi a una singola scienza, prorogano in tal modo anche l'ammissione all'ordine, ma con grande tolleranza sono lasciati, anzi incoraggiati, alle loro scorribande attraverso tutte le scienze possibili e tutti i generi di studio. Ora, alla libertà dell'alunno lasciato libero di scegliersi lo studio, si aggiunse per Knecht anche un'altra libertà e distensione. Egli non era stato soltanto un allievo come tutti gli altri, non aveva subito soltanto l'ordine della disciplina rigorosa, del preciso orario, dell'accurato controllo da parte degli insegnanti e tutte le fatiche imposte a un allievo dell'élite. Accanto e oltre a tutto ciò, la sua relazione con Plinio gli aveva recato una parte e una responsabilità che psichicamente e spiritualmente lo spronavano fino ai limiti del possibile e tuttavia gli gravavano le spalle. Era una parte tanto attiva quanto rappresentativa, una responsabilità che, a rigore, andava al di là dei suoi anni e delle sue forze e che egli, fin troppo spesso in pericolo, aveva potuto affrontare soltanto per un'esuberanza di energia volitiva e di intelligenza e che non avrebbe mai potuto assumersi senza il valido soccorso del lontano Magister Musiche. Circa 24enne, alla fine degli eccezionali anni scolastici trascorsi a Walzel, lo troviamo più maturo della sua età e un po' troppo stanco, ma fortunatamente non troppo malconcio. Quanto però la sua natura fosse stata impegnata in quella parte e sotto quel carico, anzi fosse giunta quasi all'esaurimento, non possiamo dire, in base a testimonianze dirette, ma appare chiaro, non appena si consideri il modo in cui Knecht fece uso, in quei primi anni, della libertà conquistata e certo profondamente desiderata. Colui che negli ultimi anni di scuola era stato in una posizione cospicua e in certo qual modo aveva già appartenuto alla vita pubblica, se ne ritrasse subito e interamente. Anzi, se vogliamo seguire le sue orme in quel tempo, ne ricaviamo l'impressione che abbia voluto rendersi invisibile, perché nessun ambiente e nessuna società gli parevano abbastanza innocui, nessuna forma di esistenza abbastanza privata. Tanto è vero che, ad alcune lunghe e tempestose lettere di De Signori, incominciò col rispondere brevemente e di malavoglia, e poi non rispose affatto. Il famoso alunno Knecht scomparve e fu introvabile. Soltanto a Waldzell la sua gloria continuò a fiorire e col tempo divenne quasi leggenda. Per le suddette ragioni, evitò quindi Waldzell al principio degli anni di studio e di qui derivò anche la provvisoria rinuncia ai corsi superiori e supremi del gioco delle perle. Benché un osservatore superficiale avrebbe potuto allora rilevare in Knecht uno strano modo di trascurare il gioco delle perle, sappiamo che tutto l'andamento in apparenza capriccioso e sconnesso, in ogni caso molto insolito, dei suoi liberi studi, fu influenzato da quel gioco e lo riportò a coltivarlo e a servirlo. All'amico e in seguito coadiutore Fritz Tegularius, suo compagno nel corso ufficiale di ripetizione, ebbe a raccontare alcuni anni dopo un avvenimento che non solo determinò la sua destinazione a giocatore di perle, ma esercitò anche il più grande influsso sull'andamento dei suoi studi. La lettera è conservata e dice: «Permettimi di ricordarti una certa giornata e un certo gioco del tempo in cui noi due, assegnati al medesimo gruppo, coltivavamo con zelo le nostre prime disposizioni al gioco delle perle. Il dirigente del gruppo ci aveva dato vari suggerimenti e proposto la scelta di svariati temi. Stavamo appunto passando dall'astronomia, matematica e fisica alle scienze linguistiche e storiche, e il dirigente era espertissimo nell'arte di tendere trabocchetti a noi giovani principianti e di portarci sul ghiaccio di astrazioni e analogie non ammesse. Contrabbandava allettanti giochetti di etimologia e di lingue comparate e si divertiva un mondo quando uno di noi ci cascava. Eppure, proprio sotto di lui e durante uno dei suoi arzigogolati esperimenti a sorpresa, mentre a tentoni e con ansia cercavamo di tracciare un problema passabile del gioco, mi avvenne improvvisamente di essere compreso del significato, della grandezza del nostro gioco e di rimanerne scosso fin nell'intimo. Stavamo studiando i particolari di un quesito linguistico e guardavamo da vicino il culmine e lo splendore d'una lingua. L'accompagnavamo in pochi minuti per un tratto che essa aveva percorso in alcuni secoli, e io rimasi molto colpito dallo spettacolo delle cose che passano. Compresi all'improvviso che nella lingua, o almeno nello spirito del gioco delle perle, tutto ha effettivamente un significato universale, che ogni simbolo e ogni combinazione di simboli non portano qua o là a singoli esempi, esperimenti e dimostrazioni, bensì verso il centro, nel segreto e nel cuore del mondo, nel sapere originario. Ricorderai, poiché tu stesso l'osservasti allora, che avevo subito una metamorfosi e che mi era giunta una chiamata. Questa può essere paragonata soltanto con quella chiamata indimenticabile che un giorno trasformò e innalzò il mio cuore e la mia vita, quando, ragazzino, fui esaminato dal Magister Musiche e chiamato in Castalia. Tu te ne eri accorto, io lo sentii allora, anche se non ne facesti parola, e nemmeno oggi è il caso di parlarne. Adesso però avrei da rivolgerti una preghiera, e per spiegartela devo dirti ciò che nessun altro sa, né deve sapere. Che cioè questo mio studio a tentoni non è frutto d'un capriccio, ma segue un piano preciso. Rammenterai, almeno a grandi linee, quell'esercizio del gioco che costruimmo allora nel terzo corso, con l'aiuto dell'insegnante durante il quale ascoltai quella voce e fui chiamato a essere l'usor. Ebbene, quell'esercizio che incominciava con un'analisi ritmica del tema per una fuga e al cui centro stava una pretesa sentenza di Confucio, tutto quell'esercizio da cima a fondo me lo sto studiando adesso. Cerco cioè di afferrare ciascuno dei suoi passi. Lo ritraduco dal linguaggio del gioco in quello originario, in matematica, in decorazione, in cinese, in greco. Voglio ristudiare da competente e ricostruire l'intero contenuto d'un gioco delle perle. Ho già sbrigato la prima parte, impiegandovi 2 anni. Naturalmente mi ci vorranno ancora parecchi anni, ma siccome in Castalia godiamo la nostra celebre libertà di studio, voglio usufruirne appunto in questo modo. Ed ora, ecco qui la mia preghiera. Siccome in questo momento stai lavorando nell'archivio del gioco e io, per ragioni particolari, vorrei evitare Waldzell ancora per qualche tempo, dovresti rispondere a una serie di mie domande, comunicarmi cioè in forma non abbreviata le chiavi e i segni ufficiali di parecchi temi, come si conservano nell'archivio. Conto sul tuo aiuto e spero che disporrai di me non appena io possa contraccambiare, in qualche modo, il favore che mi fai. Nella singolare linea zigzag seguita dagli studi di Knecht, la quale non è altro che l'esatto disegno e l'annosa elaborazione di un unico schema del gioco, vediamo dunque un senso ben determinato e la volontà di imporsi. Per appropriarsi del contenuto di quell'unico schema, che da alunni avevano composto una volta in pochi giorni a scopo di esercitazione e nel linguaggio del gioco delle perle si era potuto leggere in un quarto d'ora, egli lavorò anni e anni in aule e biblioteche, studiò Froberger e Alessandro Scarlatti, fughe e sonate, ripassò la matematica, imparò il cinese, si dedicò a un sistema delle figure sonore e alla teoria feusteliana della corrispondenza fra la scala dei colori e le tonalità musicali. Intuiva l'importanza della responsabilità, la sentiva già ora di fronte ai condiscepoli di Waltzel, che erano entusiasti di lui, mentre egli si teneva appartato, e la sentiva specialmente di fronte a quel Tegularius che, come sapeva per istinto, per lui si sarebbe buttato nel fuoco. Cercava dunque la solitudine e la contemplazione, mentre invece quel destino lo spingeva in avanti e verso il pubblico. Così all'incirca ci figuriamo la sua situazione interiore di allora. C'era però anche un'altra spinta o ragione importante che lo tratteneva dal solito corso superiore del gioco delle perle e ne faceva un outsider, vale a dire un invincibile desiderio d'indagine fondato sui dubbi d'una volta circa il gioco delle perle. Certo, Knecht aveva compreso che il gioco poteva essere realmente giocato in senso altissimo e sacro, ma aveva anche visto che la maggioranza dei giocatori e allievi, anzi persino una parte dei dirigenti e insegnanti, non erano affatto giocatori in quel senso elevato e sacro. Non consideravano il linguaggio del gioco come lingua sacra, ma come una specie di stenografia spiritosa, e trattavano il gioco stesso come specialità interessante o dilettevole, come uno sport intellettuale o una gara di ambizioni. C'erano insomma dubbi e dissidi. Il gioco delle perle diventava una questione di vita, era per il momento il problema fondamentale della sua esistenza, ed egli non pensava assolutamente a facilitarsi le battaglie con l'aiuto di benevoli pastori d'anime o a minimizzarle con i sorrisi svagati di cortesi insegnanti. Se stessimo scrivendo una storia della civiltà, metterebbe conto di presentare parecchi luoghi e parecchie scene del tempo in cui Knecht era studente. Con particolare compiacimento, persino con tenerezza, parlava in seguito del boschetto di bambù, l'ameno romitaggio, teatro dei suoi studi su I Ching. Là non solo imparò cose decisive, ma guidato da una meravigliosa intuizione, trovò anche un ambiente unico e un uomo straordinario, il cosiddetto fratello maggiore, il creatore e abitatore dell'eremo cinese detto boschetto di bambù. Ci sembra opportuno descrivere un po' più minutamente questo stranissimo episodio del suo periodo di studi. Knecht aveva appena incominciato lo studio della lingua e dei classici cinesi nella celebre scuola orientale che, da generazioni, era aggregata a Sankt Urban, residenza dei cultori di filologia classica. Vi aveva fatto rapidi progressi sia nella lettura sia nella scrittura. Aveva anche stretto amicizia con alcuni cinesi che lavoravano là e imparato a memoria alcuni canti dello Shi Qing, allorché, nel secondo anno di quel soggiorno, incominciò a interessarsi sempre più vivamente ai Qing, il libro delle mutazioni. E quando cercò di sapere dell'altro sul leggendario fratello maggiore, non gli sfuggì che questo eremita godeva sì un certo rispetto, persino una certa fama, ma piuttosto di bizzarro outsider che di scienziato. Capì che doveva aiutarsi da sé. Portò a termine al più presto un lavoro di seminario ormai iniziato e se ne andò. Percorsi a piedi la strada della regione dove quell'uomo misterioso aveva piantato una volta il boschetto di bambù, da uomo savio forse e maestro, o forse da matto. Sul suo conto, Knecht era venuto a sapere all'incirca quanto segue. Il fratello maggiore aveva abbandonato la scuola che volentieri l'avrebbe trattenuto come specialista e si era messo in viaggio con pennelli, vasetti d'inchiostro e due o tre libri. Trascorreva le giornate o meditando o copiando scritti antichi, sempre che non lo occupasse il lavoro nel boschetto di bambù che proteggeva dalla tramontana un orticello piantato con cura secondo gli usi cinesi. Laggiù si recò dunque Joseph Knecht, entusiasta delle frequenti soste e del paesaggio che, superati i passi montani, vedeva sorridergli azzurro e vaporoso, con le sue soleggiate terrazze di viti, con le muraglie brune popolate di lucertole, coi solenni castagneti, aromatica mistura di terra meridionale e di alta montagna. Quando arrivò al boschetto di bambù, era il pomeriggio, verso sera. Entrò e, con stupore, vide una casetta cinese in mezzo a uno strano giardino. Un uomo esile, vestito di lino giallo-grigio, con le lenti sugli occhi azzurri e attenti, si alzò da una aiola di fiori sulla quale era accovacciato. Venne lentamente incontro al visitatore, non con cortesia, ma con quella soggezione un po' goffa che hanno talvolta coloro che vivono da soli e ritirati, e guardò Knecht con aria interrogativa, aspettando che parlasse. Questi, poco disinvolto, pronunciò le parole cinesi che aveva preparate per il saluto. Il giovane discepolo si permette di far visita al fratello maggiore. L'ospite è educato e benvenuto, rispose il fratello maggiore. Knecht fece kotao ringraziando, fu introdotto nella casetta e ricevette il tè. Terminato il pasto, lo studente fu interrogato sullo scopo della visita e, poiché fu interpellato in tedesco rispose, spiegando come fosse arrivato fin là e quale fosse il suo desiderio, cioè di rimanere fin tanto che il fratello maggiore glielo permettesse e di essere suo discepolo. «Ne parleremo domani», rispose l'eremita offrendo un giaciglio all'ospite. La mattina seguente, quando finalmente Knecht si alzò scuotendo di dosso il torpore, l'altro non c'era più, ma poco dopo giunse la sua voce che invitava al tè. Si scambiarono un breve saluto Presero la bevanda e, nella pace mattutina, stettero ad ascoltare il breve getto della fontana, melodia d'eternità. Poi l'eremita si alzò, sbrigò qualche faccenda nella stanza di forma irregolare e, guardando Knecht di tra le palpebre socchiuse, gli domandò all'improvviso: «Sei disposto a calzare le scarpe e a riprendere la tua strada?» Knecht esitò un istante e poi rispose: «Se così deve essere, sono pronto.» «E se dovesse accadere che tu rimanga qui un po' di tempo, saresti pronto all'obbedienza e a mantenere il silenzio come un pesce dorato?» Anche a questa domanda lo studente rispose di sì. «Sta bene», disse il fratello maggiore. «Ora disporrò i bastoncini e interrogherò l'oracolo.» E mentre Knecht stava a guardare con rispetto e con altrettanta curiosità, mantenendo il silenzio come un pesce dorato, l'altro estrasse da un contenitore di legno una manciata di bastoncini. Erano steli di mille foglie. Con moto di danza e con un leggero rumore di stecchi, gli steli battevano l'uno contro l'altro, mutavano posto, formavano fascetti, venivano divisi e contati, muovendosi in ritmo con fantastica sicurezza. Alla fine di ogni procedimento, la mano scriveva un segno, finché i segni positivi e negativi formarono sei righi incolonnati. Gli steli furono poi raccolti e rimessi con cura nel loro recipiente, mentre il mago, accoccolato per terra su una stuoia di giunchi, aveva davanti a sé il risultato dell'oracolo sopra il foglio, che stette a lungo ad osservare in silenzio. «È il segno di Mong, questo segno. Reca il nome di stoltezza giovanile. In alto il monte, in basso l'acqua. Di sopra Gen, di sotto Kan. Ai piedi del monte scaturisce la sorgente, similitudine della giovinezza. La sentenza dice: stoltezza giovanile trova la riuscita. Non io cerco il giovane stolto, il giovane stolto cerca me. Dopo il primo oracolo do notizie. Se chiede più volte sarebbe molestia. Se mi molesta, non do più notizie. Vantaggiosa è la costanza.» Tutto compreso e attento, Knecht aveva trattenuto il respiro. Nel silenzio che seguì, sospirò senza volere. Non osava fare domande, ma credeva di avere compreso. Il giovane stolto era accettato. Dunque, poteva rimanere. Knecht rimase più mesi nel boschetto di bambù e imparò a manipolare gli steli di mille foglie quasi con la stessa perfezione del maestro. Una volta confessò al maestro che desiderava giungere al punto da poter inserire il sistema dei I Ching nel gioco delle perle. Il fratello maggiore si mise a ridere. «Su, coraggio, vedrai da te. Certo si può inserire nel mondo un bel giardinetto di bambù, ma mi sembra dubbio che il giardiniere possa inserire il mondo nel suo boschetto.» Thank you.